Quella sera cominciò un gran concerto. Musicisti da ogni dove si sfidarono in assoli al limite delle loro capacità tecniche, inconsapevoli del fatto che il loro divertimento causò la saturazione dei cervelli degli spettatori, che inesorabilmente esplodevano in mille brandelli.